giro accanto ciò sta mi sta la brucio fra come le tappe. Ogni mio socio ha già perso la bussola, vuole le mappe. Sveglio di notte, sto in fissa, poi dormo col sole che batte. Giro con gente che sembra già vista, si sopra il cartone del latte. Estraneo da tutte le parti, senza nazione col sacco. Metto il colbacco, parto fuori di casa a 20 anni. Tipo col bastone col sacco, niente può più spaventarmi. Legge di Darwin, subito il picchio col guanto. Mi aspetto il picco con guaglio, tutte di piccolo taglio. A Roma da fuori sede, ora pro nobis. Se non svoltavo in qualcuno dei modi, facevo ancora la spesa nel Tony. Seduto a piangere sopra i cartoni, la casa mi manca pure se era un loculo. Salgo a Milano coi soldi e il microfono, e sogni nel cofano fra come un cazzo di profugo. Dicono che ha avuto culo, che culo che ha avuto successo. Quando non c'era nessuno ripara seduto sul cesso. Sempre da solo depresso, in chiusa a vivere nel buio pesto. Per settimane da solo con me, sempre da solo con me. Sono solo con me, è da un po' che ci penso. Sono stanco di me, sono stanco del rap, fumo tot e ci penso. Sono solo con me, stringo le mani allo sterzo. So che domani è lo stesso, fumo 2 grammi poi svengo. Sono solo con me, è da un po' che ci penso. Sono stanco di me, sono stanco del rap, fumo tot e ci penso. Sono solo con me, stringo le mani allo sterzo. So che domani è lo stesso, fumo 2 grammi poi svengo. Fumo e l'ansia colma il cuore, chiuso in stanza col magone. Solo impara sul vagone, so che non c'è fama senza scalpore. Non c'è grana senza clamore, non c'è infamia senza l'amore. Non c'è Xana senza mattone, io sto mi para male dopo ho detto basta. Sto paranormale, fatto un ecco blast, spacco sempre il tempo passa, metto massa. Così rapper faccio casa, me li metto in tasca. Ma se mi chiedi se sono fatto dico niente affatto. Con una canna che non tira, che non c'è tabacco. Da solo giovane terrone con lo scettro magico, ho fatto soldi che sembravano un concetto strano. Fumo da solo sti fiori, sono come chiodi di garofano. Scillo tra giorni, qui sto sempre fuori, fra come i balconi e il sarcofago. Seduto a piangere sopra i cartoni, la casa mi manca pure se è un loculo. Torno a Milano, questo del microfono, i sogni nel cofano, fra come un cazzo di profugo. Dicono che ha avuto culo che ha avuto successo. Quando non c'era nessuno ripara seduto sul cesso. Sempre da solo depresso, in chiusa a vivere nel buio pesto. Per settimane da solo con me, sempre da solo con me. Sono solo con me, è da un po' che ci penso. Sono stanco di me, sono stanco del rap, fumo tot e ci penso. Sono solo con me, stringo le mani allo sterzo. So che domani è lo stesso, fumo 2 grammi poi svengo. Sono solo con me, è da un po' che ci penso. Sono stanco di me, sono stanco del rap, fumo tot e ci penso. Sono solo con me, stringo le mani allo sterzo. So che domani è lo stesso, fumo 2 grammi poi svengo.